qui? Babbo Nachele, ah-hoo! Ma che paura! Sei tu? Sei quello di cui si parla di più! Sei matto! Che matto! Non credo agli occhi miei! Non sei così! Convinciti! Io so che non lo sei! Lui è vecchio! È brutto! Di peggio non ce n'è! Mi posso sconquassare dalle risate qui con te! Mr. Bow Bow dice, attento amico mio, tu stattene in campana, sai, vedrai chi sono io. Attento a non sgarrare, se sbagli pagherai, e dopo la canzone nient'altro sentirai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, tu nient'altro sentirai. Devi liberarmi o pagherai le conseguenze. Deluderò i bambini che hanno in me tante speranze. Sei comico, ridicolo! Non credo a quel che sento! Non posso continuare questo gran sghignazzamento! Sei buffo, grottesco, mi sto per sconfisciare! Ma ora, se permetti, ho un po' da lavorare. Bene, che cosa intendi fare? Intendo fare del mio meglio. Uah! Il rotolar dei dadi è una musica per me! Io sono un giocatore, sai, terrore dei croupier! Mi gioco anche la vita mia sopra il filo di un rasoio. Se poi la vita è quella tua, farò anche l'avvoltoio. Ridammi subito la libertà o saranno grossi guai per te. Amico, sei folle, ti rendi conto che sei messo proprio male. Non c'è scampo qui per te. Sei cotto, finito. Non hai che da pregare, perché sono Mr. Bow Bow e tu non puoi scappare.